24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Buongiorno, ci siamo alle 6:35 minuti, siamo qui anche oggi e per ripartire una settimana di 24 mattino con la nostra Miriam Lucchetti lì in redazione e l'alpino Peter Bescapè in regia. Siamo tutti qui prontissimi con ovviamente la solita raccomandazione anche per questa settimana, But please relax. Anche perché leggendo oggi i giornali, più che rilassarmi, stavo mi stavo addormentando. Paginate. Ah, il bar che si apre finalmente. Beh, meno male che arriva Nicole. Il caffè volentieri a tutti quanti. Mi stavo addormentando. Paginate sulla riforma elettorale. Premi, premietti, premiucci, premini, asticelle, soglie e mal di testa assicurato se leggete oggi i giornali, ma non la scampate. Io voglio salutare, Bimbo Aliero, ma lui è su altri lidi, su altri orizzonti, su altri pianeti. Bimbo Aliero, il nostro blogger finanziario, buongiorno. Buongiorno a tutti. Per il lunedì, non ti farò addormentare ovviamente sulla riforma elettorale. Saluto anche Alberto Forchielli, buongiorno e ben ritrovato. Dove lo troviamo, il presidente dell'Osservatorio Asia? In Asia, mi risulta. Sono a Hong Kong. Sì. A Hong Kong. Ah, si sta avvicinando con una manovra tenaglia alla Cina. No? Sì. Allora, settimana scorsa l'abbiamo avuto, ma sai che il suo Siamo Feccia ha avuto un successone, c'è gente che ci scrive: come si permette Forchielli a dire che siamo Feccia? Ma chi è Forchielli per dirci che siamo Feccia noi italiani? ride Forchielli. Vabbè, allora io vi voglio far sentire questa. Venerdì all'ultima parola di Paragone si è presentato Paolo Barnard, che è un giornalista che ha raccontato una storia drammatica ma che finisce con un j'accuse molto molto forte nei confronti di Mario Monti. Sentite Paolo Barnard cosa dice, collega giornalista. Io rispondo ad una mail che mi è arrivata di un ragazzino di 17 anni in nome di Fantasia Vincenzo, un minore. Tornava dal liceo qualche tempo fa, gli hanno detto che suo padre si è impiccato, aveva preso un capannone, 6 operai, aveva piegato tutti i suoi risparmi, si era indebitato con una banca, lavorava 7 giorni su 7, calati gli ordini, calati i clienti, chiesto aiuto alle banche, niente, si è impiccato. Ora Vincenzo, tu hai 17 anni, non sai che tuo padre è stato ammazzato da un sistema che si chiama Eurozona e dalle politiche economiche di un signore che si chiama Mario Monti, che sta vendendo questo paese alla speculazione finanziaria di poche centinaia di persone e a quelle banche che prendono miliardi quasi gratis a tuo padre, rifiutarono 10.000 euro per salvarsi la vita. Ora, questo è un economicidio. Le ragioni della morte di tuo padre potevano essere abolite, evitate da Monti in un anno di lavoro. Lo potrebbe ancora fare e non lo farà mai. Anche forse solo per il tuo caso questi sono crimini contro l'umanità, ma siete tanti là fuori e sarete sempre di più nei prossimi mesi. Allora io sono venuto qua in questo programma mesi fa a dire che Mario Monti è un criminale. L'ho detto per rispetto alla tua tragedia, Vincenzo, ma l'ho anche detto perché io spero e voglio che Mario Monti mi denunci, mi quereli, perché solo denunciandomi, querelandomi, io posso portare davanti a un tribunale italiano le prove del fatto che questo è un economicidio contro la patria. Allora sono davanti a questa telecamera, un network nazionale. Lo ripeto, Mario Monti, lei è un criminale, mi deve denunciare. E finisce così, insomma. Allora, l'Eurozona, le banche, Forchielli, Mario Monti è un criminale, è arrivata a dire Paolo Barnard, accusandolo di essere all'origine di questa tragedia, insomma, di questo signore che si è suicidato perché le banche, l'Eurozona l'hanno rovinato, no? E siamo sempre lì, la gente non ne può più. E però fa bene a prendersi la gomma. No, la ragione è che la Banca Centrale Europea non esiste e non riesce a difendere l'euro. Questa è la radice del problema. Povero Monti non ha nessuna responsabilità in questo. Cioè, sta facendo, come si dice, il lavoro sporco, quello che nessuno voleva fare. Ma no, abbiamo preso a prestito 3 trilioni di euro e quando un paese è indebitato così è in mano ai creditori. Quindi con una banca centrale che è inetta, che che non ha le armi per poter difendere l'euro, chiaramente noi siamo completamente sbandati. Sì, però torna sempre questo leitmotiv, anche Bimbo Alieno, su questo ti vorrei coinvolgere, tu che questo mondo lo conosci, mi pare di capire che lo conosci abbastanza bene, e torna questo leitmotiv, la gente non ne può più, ci sono anche delle tragedie personali molto molto serie, gravi, che Radio 24 ha anche raccontato, e la gente se la prende con Monti, il sistema delle banche. Cosa c'è di giusto e cosa c'è di sbagliato in questa posizione? Ma guarda, senz'altro a me la cosa che ha colpito è sentire in questa registrazione il pubblico sotto che applaude a piena forza. Che ci sia chi cerca, come dire, di sfruttare le situazioni per la propria notorietà, per dire la prego, primo ministro, mi faccia causa, come dire. Insomma, vabbè, devo dire che è abbastanza angosciante sentire il pubblico in quel modo. No, ma è chiaro, ma in TV funziona anche un po' così, uno dice una cosa forte e strappa l'applauso, certo, del pubblico, una cosa a effetto, no? Paolo Mardar dice: mi denunci perché così porto le prove in tribunale di questo crimine. Sì, oppure se vuoi leggerla furbescamente, stai attento che se mi denunci, come dire, mi dai ulteriore platea e visibilità. Siccome sa benissimo che magari, voglio dire, non è nello spirito di Monti mettersi a fare causa per queste cose, si potrà, questo sì, però ha un anno non l'ha fatto perché aveva paura, sì, certo, aveva paura che delle prove che avrei portato in tribunale potessi smascherare, però se lo vuoi smascherare non hai bisogno di andarlo a fare in tribunale. Sì, però siamo a un anno dal governo Monti, no, proprio giusto un anno fa si insediava, è stato come si dice spesso anche qui nei nostri microfoni, hai detto anche tu, un lavoro sporco che doveva fare qualcuno e che nessuno voleva fare, soprattutto i partiti, che quindi è arrivato questo Monti e ha dovuto farlo, oppure ci è andato giù anche con la mano un po' più pesante rispetto a quello che si poteva fare? Ma sicuramente, voglio dire, questo anno compiuto ieri di governo, insomma, lascia indietro qualche macchia, la questione degli esodati direi che è la più grande, poi c'è, leggevo questa mattina, la questione dell'IMU, che stanno tentando di, da una parte c'è questa volontà di estenderlo alla Chiesa e agli enti no profit, quindi alle fondazioni bancarie anche, dall'altra c'è il tentativo di riscrivere le cose per far sì che comunque si riesca a dare una sorta di esenzione a questi. Sì, sì. Sono cose evidentemente sgradevoli, nel senso che. Sì, quella degli esodati è la prima, e la soprattutto oggi, giustamente, Repubblica titola così: altra beffa per gli esodati, mancano i soldi. Sì, mancano i soldi per loro, soprattutto. Forchielli, che paese è quello che ci sono un gruppo di esodati, per un certo periodo non si è neanche saputo per quante migliaia di persone sono, cioè non lo sapevano, al governo non lo sapevano perché avevano sbagliato a fare i calcoli, un gruppo di soldati che non avranno la pensione e non hanno più il posto di lavoro e chissà come vivranno per due o tre anni o un anno, ecco, tutto bene così, e non si trovano i soldi per queste persone. Ma pare possibile questo, Forchielli? No, ma non mi sorprende perché dietro le quinte è un paciugo bestiale come fa le cose. Ma lei lo sa che tante volte il Consiglio dei Ministri approva dei decreti, delle robe, e in Gazzetta viene pubblicato un'altra roba. No, io sono stato alcuni anni a Roma e 20 anni fa, adesso non può che essere peggio, ma lo trovavo incredibile allora, quindi che sbaglino i conti poi dopo alla fine li troveranno, ma sì. Ma perché fanno apposta? È la norma. E cos'è? Non sono capaci, fanno apposta. Ah sì, lavori che rimangono a metà, e ti dà gli stanziamenti, poi te li ritirano, ti fanno prendere gli impegni e poi non ti danno i soldi. Tesoro, ormai hai capito, è una situazione in cui non c'è cassa, il tesoro fa un po' così. In tutto questo, però, Forchielli, Monti, io faccio un rimprovero a Monti. Il problema di Monti è che lui la pensa come la Merkel, capito? Sì. Dentro di sé la pensa come la Merkel, e lui non è riuscito, cioè in realtà questo finto, queste finte, fa dei finti licenziati, la situazione della banca centrale, sì. L'ECB ancora sì, Draghi ha dato delle grandi spallate, però ancora fa molta fatica a mettere liquidità nel sistema, vede che difficoltà a chiudere con la Grecia, vede che difficoltà a chiudere il patto con la Spagna, cioè fa finta, ossia, di litigare con la Merkel a sto punto, fa finta di litigare. Capisco l'austerità, però avrei voluto qualcosa di più coraggioso nei confronti della Germania, cosa che Monti non ha mai fatto. Cioè praticamente fa finta di litigare con la Merkel. Tra l'altro Monti, che dice a un giornale, a una rivista francese, lo ha detto, e nel weekend è stato il titolo un po' di tutti i giornali, se servisse io sono qua e resterei, ma io lo dico con tutto il premio di maggioranza che stanno mettendo, stanno facendo, se viene fuori questa legge elettorale al 42,5% la soglia per ottenere la maggioranza, è chiaramente una vergogna, fatta tra l'altro per non far vincere, non far guadagnare tanti seggi al Movimento 5 Stelle, chiaramente proprio la legge contra personam, ma Monti che dice sono pronto, se servisse resto qui, ma io lo dico, ma che andiamo a votare a fare? Ma non andiamo neanche a votare, no? E facciamo, diamo a Monti, eterna Monti, per sempre, e andiamo avanti così. No Alessandro, io non userei un forcone, non ci ho pensato bene, farei come Don Camillo tanti anni fa, userei un bel legno, però di un legno morbido, che non lascia tanti segni, e glielo darei sul groppone. Ciao Alessandro, vorrei esprimere tutta la mia solidarietà al ministro Fornero, alla figlia, perché poverine hanno le verdure, i pomodorini che sono un po' ciusi, nonostante le coltivino con tanto amore, a volte non so se non vengono fuori. Voglio solo dirti che la conduzione della rassegna stampa da parte tua potrebbe sintetizzarsi nella locuzione latina castigat ridendo mores. E basta con sto Berlusconi, basta. Io non riconosco nessuno che mi rappresenta, né il mio sindaco, né tutti gli assessori che sono dei papponi allucinanti. A Foligno, siamo in Umbria, Umbria Rossa, tutti papponi. Mi ha appena telefonato il commercialista dicendomi di spendere di più perché altrimenti l'anno prossimo pagherò troppe tasse. In realtà non ho una lira. Quando è che ti ricordi di parlare del finanziamento pubblico ai giornali? Allora, la nostra segreteria telefonica. Vogliamo sentire Bersani due giorni fa a Milano parlando del centrodestra. Dice c'è qualche problema nel centrodestra. Sochmel. Oggi i giornalisti mi dicono Maretta nel centrodestra. Sochmaretta. Maretta, più buono. E allora uno tsunami cos'è? No, ma cos'è uno tsunami? Stanno scaricando sul povero Monti tutto quello che hanno combinato loro. Ecco, allora lì diciamolo chiaro, noi abbiamo il diritto di criticare questa o quella cosa che fa Monti. Loro devono stare zitti almeno un giro. Non possono parlare. Oh, questa è la posizione di Bersani. Bimbo alieno, la questione è, cioè, il centrodestra stia zitto perché criticano Monti, ma solo noi possiamo farlo visto che al governo c'erano loro l'ultimo giro, no? E quindi stiano fermi un giro. È una posizione condivisibile oppure in politica si può dire tutto? Ma diciamo che essendo comunque il PD il partito di riferimento insieme al PDL, ma comunque che si è sdraiato su tutte le richieste del governo, anche per quanto riguarda loro il diritto di critica credo che sia da mettere in discussione. Nessuno... Non ho mai visto alzarsi un ditino nel dire no, però insomma ci sarebbero degli emendamenti o... Mi è sembrato molto morbido l'atteggiamento del PD nei confronti del governo, per carità, l'atteggiamento di fondo era... è necessario e quindi, però insomma la citazione è stata assolutamente no, però il concetto è di nessuno può alzare tanto critiche visto che tutti poi si sono un po' sdraiati. Non so se Forchielli che ne pensa, lì da Hong Kong è legittimo. Ma, Ma no, il PD ha quel peccato originale di essere legato a filo doppio con la CGIL. Ancora, ma è un po' diverso. È impedito, sì, è uscito il tema, l'accordo sul lavoro è stato un aborto. E questo è quello l'ha bloccato il PD su pressione della CGIL. Adesso farsi governare da un partito che è seriamente condizionato da un sindacato che appartiene all'archeologia industriale mi lascia qualche perplessità. Ma Forchelli, ma lei per chi vede bene a questo punto? Mi dica, ribaltiamo il discorso. No, sono per la continuazione di Monti. Eccolo lì, eterna Monti. Senza grandi entusiasmi. Eccolo lì. Però è il meno peggio. Ma ho capito, ma Forchelli, ma cosa non facciamo? È Inaudi, non è Ciampi. Sì, però va bene. Non è Andreatta, però è il meno peggio. Ho capito, ma Forchelli, ma deve prenda i voti. Cioè, nel senso, non è che si può dare il governo a uno che non si candida. Non sarebbe la prima volta. Sì, ha ragione anche lei, però ho capito. C'è questo piccolo particolare del prendere i voti, no? Di candidarsi, fare le elezioni. Ma altri atteggiamenti antipatici, quello di dire siamo più popolari noi dei partiti. Beh, quando fai un'affermazione del genere diventi un partito tu stesso, capito? Ha altri atteggiamenti antipatici Monti, però come le dico, qui siamo almeno peggio, perché gratta gratta non c'è nessuno. Sì, ma ho capito, a Bimbo Alieno è già successo con Monti, ma non è che si può, cioè, voglio dire, ma le elezioni saranno un piccolo momento di democrazia nella quale un popolo sceglie i propri eletti, o no, Bimbo Alieno, che dobbiamo fare? Sì, dobbiamo sospendere tutto. Le elezioni tutte. Poi formano degli equilibri, ma questi equilibri sono transeunti, lo sai anche tu. Transeunti, parli come Monti, transeunti. Questo è proprio Monti, esci da Bimbo Alieno. Cosa succede? Ma che vuol dire? Ma io non lo so, ma io l'ho detta come provocazione, eterna Monti. Allora votiamo e va bene tutto così. Sentiamo dall'altra parte Alfano cosa pensa di Berlusconi. Sentite questa perché non è male, eh. Lei qui a Repubblica, se mi dà 10 secondi, anche meno di 10 secondi, prendiamo la prima pagina. Non abbiamo problemi. Sì. Prendiamo la prima pagina. Prima pagina. Questa se l'è preparata? No, l'è venuta adesso? Sono un ragazzo sveglio. Ah, ecco, vediamo. Vede, direttore Ezio Mauro. Fondatore. Fondatore Eugenio Scalfari, che fa anche l'editoriale della Domenica. Cioè, praticamente Alfano sta dicendo che Berlusconi è come Eugenio Scalfari, dovrebbe diventare il fondatore del PDL, fare il padre nobile. Bimbo Alieno, Berlusconi con la barba bianca. Ma guarda, Alessandro, allora io sulla panchina non mi ci vedo. Come ben sai, la mattina soprattutto sono dedito a essere ben più attivo che non Scalfari, che non fa altro che star lì a scrivere qualche pezzo raffazzonato, sempre ispirato alle sue logiche prevalentemente di sinistra. Qui invece mi trovo a mio agio, perché come me anche tu critichi questo governo e insomma, però dall'altra parte lo appoggiamo, via. But please relax. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. In questo lunedì 12 novembre, intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore apre sul pubblico impiego. Il titolo di apertura: per gli statali, tagli a tutto campo da gennaio, riduzione dei posti obbligatori anche per comuni e partecipate. Il Corriere della Sera invece sulla scuola, sull'orario vincono i docenti. Repubblica, esodati, altra beffa, mancano i soldi. L'Unità, salvi i professori, non gli esodati, mette insieme le due cose. Per la Stampa invece Monti all'Unione Europea, inaccettabile lo stop ai fondi per l'Emilia. Il Secolo XIX, l'Italia flagellata, chiede aiuto all'Unione Europea.

a cercare di inserire la retromarcia rispetto a un vicolo cieco nel quale a seconda nostra ci si stava infilando. Adesso stiamo cercando con i tantissimi che sì. da tutta Italia ci danno la loro disponibilità di dare vita a un soggetto politico. Ma anche dall'Italia dei Valori, cioè ci sono altri che secondo lei usciranno dall'Italia dei Valori? Ce ne sono tanti che stanno uscendo, ma guardi, comunque non abbiamo la minima intenzione di fare il partito, come dire, degli ex militanti eretici. Sì, questa sì. sarà una proposta politica che riprenderà ovviamente quella che è la mia storia, che non solo non rinnego, ma della quale vado orgoglioso. Mm. Quindi battaglie per la legalità senza giustizialismo, quindi difesa dell'etica pubblica e quindi l'attacco a uno Stato sprecone, dove la politica si è infilata lì dove non dovrebbe stare, dentro le USL, dentro sì. migliaia di aziende che con la scusa di essere pubbliche sprecano denaro destra e sinistra, insomma. Queste battaglie. Però le chiedo, lei da mesi aveva un disagio, però non so, cos'è stata allora quell'inchiesta televisiva, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la classica goccia, no? Ma guardi, l'inchiesta televisiva proprio non c'entra niente, nel senso c'entra piuttosto il fatto che nel momento in cui si era deciso, e questo era stato, come dire, l'unica concessione che ero riuscito a portare avanti in sei mesi tentati a ricondurre l'Italia dei Valori dentro il centro-sinistra, cioè sì. di tentare di riaprire un dialogo con i partner della coalizione, e il giorno dopo esce un'intervista al presidente Di Pietro sul Fatto Quotidiano dove dice il mio partito è morto, ci sono i partiti in Parlamento che stanno cercando di ucciderlo perché abbiamo attaccato il Presidente della Repubblica. Ha parlato anche di complotto. Ha parlato di complotto. Una mano a Grillo. Io lì ho visto perdere ogni speranza in realtà di voler davvero... Di cambiare il partito. Esatto. Ha parlato infatti anche di complotto Di Pietro riguardo a quell'inchiesta televisiva. Lei... Quella settimana ne ha detti di tutti i colori. Io francamente credo che evocare complotti, dire che è una parte del PD che vuole uccidere l'Italia dei Valori, continuare a evocare questa... guerra sotterranea con il Quirinale, che quasi in quell'intervista potrebbe apparire il mandante, visto che è stato attaccato Napolitano, oggi io pago un prezzo. Insomma, veramente mi ha dato l'idea di un partito che ormai di non far più parte di quel partito, sì, non vuole più far parte di quel partito. Però Di Pietro ieri ha detto che la stima umanamente, che sono solo divergenze politiche, ma umanamente la stima. Lei invece Di Pietro l'ha in qualche modo, in qualche intervista, paragonata a Berlusconi, cioè dire sembra quasi la fine politica un po' berlusconiana, no? È un partito per tanti versi molto legato a una persona per tanti anni e adesso in crisi e sembra di fare quella fine lì. Non è stato molto tenero lei con Di Pietro? No, effettivamente non è stata un'espressione tenera, ma è un'espressione che riconfermo, ma ovviamente non riguarda il giudizio sulle due persone. Io penso che Berlusconi abbia fatto molto male a questo paese e credo che Di Pietro si sia battuto in questi anni per cercare di impedire di farglielo fare. Ho solo constatato che in una fase, diciamo, di declino o comunque di debolezza vedo reazioni simili, che allora mi fanno pensare che è proprio un modello, quello di questo leaderismo sfrenato che non funziona e che porta danni al paese, perché alla fine questi leader pensano più a, come dire, difendere la loro immagine, difendere la loro carriera politica, che non a realizzare interessi collettivi. E da questo punto di vista vedere Di Pietro che dopo tanti anni in cui la difesa attacca la stampa, attacca Report, attacca Crozza, che evoca complotti, che cerca di farsi un nuovo partito sperando di risalire nei sondaggi. Beh, insomma, fare il paragone... Ha visto un po' in questo un Berlusconi. Inevitabile. Senza nulla togliere il fatto che due persone più lontane non ci possono essere. No, questo sì. Una ha fatto solo male a questo paese, dal mio punto di vista, l'altra ha cercato di impedirlo. Però lei non si è mai accorto di nulla, cioè adesso c'è il focus sui presunti conti, le presunte irregolarità, anche se Di Pietro dice tutto regolare, ci sono sentenze. Lei non ha sospetti che sui conti dell'Italia dei Valori ci sia qualcosa che non vada? Perché lei è stato nell'Italia dei Valori fino a qualche giorno fa. Certo, no, io non credo che la gestione del partito sia stata seria e trasparente. Sicuramente i fondi pubblici sono stati, questo sì, come lo hanno accertato diverse sentenze, utilizzati per la vita del partito. Poi è un partito che in questi 10 anni ha amministrato quasi 100 milioni di euro di fondi pubblici. Io posso rispondere per i bilanci che ho approvato, ma non sono io che l'ho amministrato. Io ho pensato a fare politica, però se mi chiede qual è il mio giudizio, cioè, lei metterebbe la mano sul fuoco. Sono convinto e sono convinto ancora oggi che Antonio Di Pietro sia una persona moralmente irreprensibile, che abbia ben governato il partito. La mano sul fuoco cosa vuol dire? Io credo che ognuno possa... Beh, insomma, cosa vuol dire? Vuol dire fatto in prima persona. No, questo sì, però lei è stato in un partito che adesso è sotto accusa, è un partito che anche nel nome Italia dei Valori ha portato avanti e porta avanti delle istanze diverse che rivendica questa diversità rispetto a alcune cose. Immagino che se lei c'è stato dentro per tanti anni, insomma, avesse totale fiducia del fatto che i fondi pubblici venissero gestiti in modo totalmente trasparente. Non solo ho avuto totale fiducia, ma nel momento in cui fino al 2009 eravamo tutti consapevoli che ci fosse una gestione praticamente unipersonale della politica e della cassa, questo l'abbiamo consentito per la piena fiducia che avevamo nella persona, ed è una fiducia che per quanto mi riguarda ancora oggi non si è inclinata, perché Grieto non ha 54 case, insomma è un dato palese. Poi se mi chiede se sono pronto a metterci la mano sul fuoco, io non è che ho visto i conti a uno e ne ho consapevolezza. Ho una consapevolezza politica per aver anche controllato gli ultimi 4 bilanci, che la gestione a mio avviso è stata assolutamente corretta e trasparente, ed ho piena fiducia però nella correttezza di Di Pietro. È corretto dire... Il fatto di mettere la mano sul fuoco, come dire... come dire, lo giuri, ma io come posso giurare? Non era lei il tesoriere del partito? È una domanda che non era lei, sì, certo, non era lei il tesoriere del partito, però è corretto dire che anche questo modo di tenere la cassa, lei dice per la fiducia che avevamo totale fino al 2009, è un modo sbagliato, che si chiami Di Pietro, che si chiami Pinco Pallino? Beh, è assolutamente un modo sbagliato, avremmo dovuto cambiarlo anche prima, ma quello è un errore che abbiamo fatto tutti insieme, non è un errore che può essere addebitato una persona soltanto. Quello che invece io ho fatto in questi giorni è una critica più ampia, nel senso che io credo proprio che un modello di politica, perché vede, questo modello del leaderismo, dell'uomo solo al comando, di questi partiti unipersonali, dove mi capita spesso di sentire anche in Parlamento altri partiti dove i parlamentari si lamentano, porca miseria, ma la linea l'ho presa stamattina leggendo il giornale. Ecco, io credo che questo sia un modello finito. Ed erano tutti uguali i partiti. Beh, se sono nominati i partiti dicono vi abbiamo nominati con questa legge, quindi adesso fate quello che diciamo noi. Il modello dei leaderistici si è scelto il sistema elettorale che gli faceva più comodo, appunto, dove i leader manco devono aspettare che li eleggano gli elettori, se li scelgono loro. Se hanno scelto degli yes men, poi gli yes men devono solo abbassare la testa e pigiare il bottone. Questo è il sistema. Il punto è che tutto questo sistema ha fallito, perché l'Italia che ci consegna questo sistema di partiti leaderistici, unipersonali e carismatici è un'Italia che non solo non ha risolto i problemi degli ultimi 20 anni, ma li ha aggravati. E ancora oggi, a mio avviso, vediamo come a uno non è un problema di Di Pietro, non è un problema della stanchezza fisica. Se pensiamo che, come dire, quello che apparentemente è il più in forma di questa generazione di leader carismatici, nel senso che è presente come il prezzemolo in ogni giornale o trasmissione televisiva italiana, o in persona, cioè, o perché è nominato, e penso a Casini, poi nelle intenzioni di voto degli italiani come possibile candidato Presidente del Consiglio agli stessi voti di Oscar Giannino, allora lì si capisce, secondo me, proprio come gli italiani da questo punto di vista considerano chiusa un'epoca, perché ha trasformato l'Italia in curva nord e curva sud, ma non ha risolto. Visto che è chiusa un'epoca, me lo dica Flash che devo chiudere, secondo lei anche Di Pietro è politicamente al capolinea? Non in quanto persona, ma quello che io gli avevo chiesto era di accettare il rinnovamento. Tutti i partiti leaderistici sono destinati a scomparire nel giro di pochi anni, cambiava solo tra chi stava lì in sella al suo destriero ad aspettare gli eventi e chi li avesse saputi prima interpretare e cavalcare, trasformando il suo partito e facendolo vivere anche dopo di sé. Mi pare che però sia una sfida che per questi leader è difficile. È difficile. Intanto in bocca al lupo, seguiremo allora la sua nuova avventura politica. Grazie Massimo Donadi per essere stato con noi, buona giornata ovviamente, e fa parte ora del gruppo misto, deputato alla Camera, ex capogruppo dell'Italia dei Valori da cui è uscito. Noi tra 5 minuti parliamo di un libro che esce questa settimana, è un libro scritto da un magistrato in pensione. Un magistrato che ha avuto una lunga carriera, che ora fa un duro attacco non tanto alla magistratura ma a tutto il sistema giustizia. Il titolo si intitola Forti con i deboli. L'accusa è proprio questa: è un sistema giustizia che difende i potenti e a discapito appunto dei più deboli. L'autore è Livio Pepino, è un magistrato anche noto come magistrato Notav. Si intitola Forti con i deboli. È un libro che è un duro atto d'accusa, non tanto, non solo alla categoria di cui l'autore fa parte, ma a un sistema in toto. Il sistema è il sistema giustizia, la categoria di cui fa parte l'autore è la magistratura. L'autore è infatti Livio Pepino, che saluto. Buongiorno e benvenuto, dottor Pepino. Buongiorno a lei, grazie. È un magistrato di lungo corso, è stato anche membro del CSM, del Consiglio, l'organo di autogoverno della magistratura. È anche stato il fondatore della corrente sindacale Magistratura Democratica, per questo definito una toga rossa. Lei è contento quando la definiscono una toga rossa? Ma guardi, sì. No, ne sono contento. Che vuol dire poi una toga rossa? Esatto, quello che stavo per dirle. Non ne sono contento in relazione a un'esperienza storica, non perché toga rossa è un termine brutto che è stato coniato in termini spregiativi, quasi fosse una toga che faccia degli interessi di parte. In realtà ha corrisposto a una stagione importantissima della magistratura in cui una parte di giudici si sono affrancati da una pura e semplice appartenenza a settori tradizionali del potere, hanno cercato di attuare la Costituzione. Ecco. Siccome storicamente rappresenta questo, il termine mi si addice. Senta, allora lei fa questo duro atto d'accusa, è un po' un duro atto d'accusa che ripercorre anche i tanti anni della sua carriera. Mi colpisce molto dire, anche nell'introduzione, pensare a dire che l'amministrazione della giustizia, secondo noi, è votata al controllo dei poteri forti. In realtà non è così, è dalla parte più dei potenti che dei deboli. Perché lei arriva a questa considerazione, che è una considerazione molto pesante? Certo, ma guardi, io anzitutto una piccola precisazione: io ho smesso ormai da quasi 2 anni di fare il magistrato dopo 41 anni di lavoro in magistratura, quindi sono un ex magistrato, solo come però ho fatto un lungo percorso nella magistratura. Io ho cercato di dire questo: storicamente la magistratura in tutti i sistemi è stato un pezzo del potere. Nello statuto albertino, cioè nella costituzione dell'età liberale e poi dell'età fascista, magistrato della giustizia emanava dal re e dai giudici da lui nominati. Quindi la giustizia era un atto regio, era un atto del sovrano. Sì. Nella nostra Costituzione si è detta una cosa del tutto diversa. Si è detta che i giudici sono soggetti soltanto alla legge e si è garantito con tutta una serie di sistemi l'indipendenza della magistratura. E perché non si è concretizzata, evidentemente, secondo lei? Allora, secondo me si è in parte concretizzata, non in toto, perché ci sono grandi resistenze da un lato della politica ad attuare e a consentire l'espansione di questi poteri della magistratura, da un altro per la difficoltà che è propria di ogni burocrazia. La burocrazia in genere tende a conservare l'esistente più che ad attuare dei principi nuovi, e sociologicamente anche la magistratura è una burocrazia. Infatti, nel ragionamento che le facevo prima su magistratura democratica, che cosa ha significato? Ha significato proprio il tentativo di rompere questo aspetto burocratico, funzionariale, impiegatizio della magistratura, che se resta tale determina un inevitabile allineamento con quelli che sono i poteri forti della società. No, diciamo che in questo libro, che è anche un excursus per esempio delle stragi impunite, dei depistaggi che sono parte della storia della nostra Repubblica, uno dei capitoli che mi ha più colpito è quello del carcere. Cioè, secondo lei, nell'esaminare chi va in carcere, sono soprattutto persone delle fasce più deboli, tossicodipendenti, piccoli spacciatori, extracomunitari, lì si vede, si concretizza il perché il sistema giustizia sta dalla parte dei più forti e punisce invece i più deboli. Perché lei chi ci vorrebbe vedere in carcere? Allora, io le faccio una battuta che è anche contenuta nel libro. Io non amo il carcere per nessuno. Vorrei che il carcere fosse una cosa residuale soltanto per le situazioni che non sono suscettibili di essere affrontate altrimenti. Quindi i miei sogni non li riservo al fatto che vadano in carcere altri rispetto a quelli che vanno oggi. Io rilevo che la situazione è di un carcere che è pieno di piccola marginalità, in una situazione in cui, anziché avere delle evoluzioni verso forme di pene alternative, il carcere passa da metà degli anni 90, quando secondo i dati del Ministero dell'Interno c'è stato il massimo della criminalità in Italia, a 30.000 detenuti, per arrivare a 70.000. Allora, questo è secondo me il problema grave. Io le faccio una provocazione. Ora si sta discutendo, giustamente, dell'opportunità di mantenere la pena del carcere per la diffamazione. Sì. Io credo che sarebbe bene toglierla, ma perché? Perché non corrisponde al senso della diffamazione. Ma perché non toglierla allora per l'oltraggio, per la resistenza, per il furto di un autoradio, che fanno certamente molto meno male di quella che può fare la diffamazione a una persona che perdura per anni. Cioè lei toglierebbe, credo... lei come provocazione dice, toglierei il carcere per chi ruba un oggetto. Perché ruba un autoradio con un danno irrisorio. Beh, ma è un furto, però, insomma. Certo, certo. Ma io infatti mi chiedo, fa più danno il fatto di essere privato di un autoradio o di essere accusato ingiustamente su tutte le testate nazionali di un fatto gravissimo? Io credo che faccia più danno il secondo del primo, e allora commisuriamo la reazione dell'istituzione, sì, in maniera adeguata. Però se uno, cioè, lei immagina anche una società in cui si depenalizza con il, meglio non si depenalizza, però non si manda in carcere uno che ruba un autoradio, avremmo, come dire, che segnale sociale da mandare ai ladri di autoradio? Il segnale sarebbe di dare delle risposte a altre, lavori di pubblica utilità, sanzioni di carattere alternativo, pene pecuniarie se l'autore del furto ha i mezzi per poterle pagare. Io non sto dicendo che debbano essere tollerati i comportamenti antigiuridici. Ma puniti in modo diverso rispetto al carcere. Puniti in modo diverso, questo è il punto. Allora, facciamo così, ci sono le informazioni sul traffico, poi mi concentrerei su un altro capitolo interessante, un altro punto interessante, che è quello delle manifestazioni, vale a dire la piazza, l'ordine pubblico e il tema della legalità. Lei parte, secondo lei, dall'evento che ha un po' cambiato tutto, vale a dire il G8 di Genova, e ci sono state sentenze, ce ne siamo occupate noi ultimamente, per arrivare anche alla vicenda NoTav, in cui lei, tra l'altro, è protagonista in prima persona, perché il magistrato Pepino è cosiddetto anche un magistrato NoTav, nel senso che ha comprato anche un terreno per evitare gli espropri e quindi la realizzazione dell'opera, e anche lì secondo lei si concretizza il senso di quello che lei ha messo nel titolo del libro, una giustizia forti con i deboli. Dottor Pepino, ecco, parliamo dell'aspetto ordine pubblico. Lei dice il G8 di Genova ha segnato un punto di non ritorno. Che punto? Ma guardi, il problema dell'ordine pubblico è un problema che riguarda qualunque tipo di società. Io rilevo che in Italia, dal dopoguerra fino al 1977, ci sono stati oltre 150 morti in manifestazioni di piazza, di cui 14 tra le forze dell'ordine e gli altri tra i manifestanti. Dal 1977 al 2001 non c'è stato, per fortuna, nessun morto. Non è che siano cambiate le persone, è cambiato il modo di affrontare, sì, i temi sottostanti all'ordine pubblico. Se di fronte a grandi questioni sociali, a grandi conflitti politici, a grandi forme di protesta, la politica reagisce con il dialogo, con il tentativo di risolvere i problemi, e poi anche la piazza viene gestita in maniera contrattata, si possono fare dei passi avanti. Se la politica si ritira e considera le questioni sociali solo problemi di ordine pubblico da delegare alla polizia e alla magistratura, e allora lo scontro diventa uno scontro frontale. Non so, con tutto quanto cosa accade. Si doveva fare nel 2001, perché poi quel morto dal 2001 è arrivato proprio nel 2001 di Genova. Cioè, cosa si doveva fare? Contrattare con una piazza che in alcune frange era una piazza volutamente violenta, e dall'altra parte c'è stata una reazione spropositatamente violenta da parte di alcune forze dell'ordine, visto che è stato accertato con sentenze passate in giudicato? Certo. Come si fa a trattare? Il problema era, secondo me, proprio quello che ha detto lei. Ci sono state a fatti indubbiamente di reato, che come tutti i reati vanno perseguiti. Ho fatto per 40 anni il magistrato, non l'avrei fatto se non fossi convinto di questo, ma vanno perseguiti con un senso di maggiore attenzione da parte di chi ha delle responsabilità istituzionali. Alla violenza di alcuni bisogna rispondere isolando la violenza di alcuni e perseguendo la violenza di alcuni, e non, come è accaduto a Genova, con una repressione sostanzialmente indifferenziata e poi con gli episodi che conosciamo di Bolzaneto e della Diaz. Questo determina una situazione di conflitto da cui non si esce più. La mia preoccupazione è proprio riuscire a superare in avanti le forme del conflitto, non a fingere che non ci sia. Secondo lei queste premesse ci sono anche in quello che sta succedendo in Val di Susa per la Notav? Lei è un magistrato che, appunto, più volte, l'abbiamo anche invitato in passato, ha fatto questo gesto, ha comprato un territorio per cercare di impedire gli espropri e quindi non far realizzare l'opera. Questa cos'è? Una forma di protesta legittima di fronte alla quale, visto che è un'opera che è considerata legittima, cosa dovrebbe fare? Dove si dovrebbe trattare all'infinito? Allora, due cose. La prima è quella a riferimento all'acquisto, l'acquisto di un metro quadro, non certo di un terreno, e come gesto simbolico. È il gesto di dire, visto che in una società con queste caratteristiche non ascoltano le nostre idee, che almeno ci ascoltino quando viene in evidenza un dato economico, un dato di proprietà. Quindi è una sorta di provocazione, non è certo un atto. Secondo, noi riteniamo, cioè io ritengo, perché rappresento me stesso, ma che rispetto a quello che si dice che c'è stato un dialogo, eccetera, questo non è assolutamente così. Un confronto con la popolazione locale su quelli che sono prima di tutto l'attentato alla salute che può provocare un buco in una montagna piena di amianto, i costi dell'opera, le ricadute sulla valle, esigono un livello di confronto, all'esito del quale è chiaro che bisognerà arrivare a una decisione. Però in questo momento se è stato deciso, lei dice non sono stati fatti i confronti del caso, ma se è stata decisa una cosa, che si dovrebbe fare? Rimettere in discussione tutto? Io credo che il problema e se sia giusto o no, perché se una cosa è giusta, una politica intelligente la conferma, se si accorge che è sbagliata non c'è una ragione per continuare nell'errore se si riconosce che è tale. Ma questo è successo, non è un discorso teorico, lei pensi allo Stretto, lei pensi alle Olimpiadi, sono una serie di dati su cui c'erano state delle decisioni più o meno avanzate, si è continuato un ragionamento, soprattutto considerato che ci sono dei piccoli lavori preparatori, non è che si tratti di interrompere un'opera e di tornare indietro, si tratta, mentre questo va avanti, di avviare un elemento di confronto, un dialogo. A questo proposito, visto che ho letto che un gruppo di hacker ha recuperato nei siti della polizia un elenco anche di persone attenzionate dei Notav, e mi pare di aver letto che ci sia anche suo figlio, è vero così? Cioè che ha il cellulare sotto controllo, questo almeno... Questo non ho idea se sia così, immagino che sia possibile, non è un mistero che mio figlio ha una come decine di migliaia di altri, per di più abitando in Valsusa, una situazione di opposizione. Io non so che tipo di attenzioni gli siano riservate, mi auguro che gli siano riservate. Ma questa la preoccupa? La preoccupa l'eventualità che fosse così? O dice che è tutto normale? No, mi preoccupa non solo e non tanto per mio figlio, mi preoccupa perché rivela, se fosse così, la caduta di un sistema che dovrebbe essere fondato sulla libertà e sul rispetto delle idee delle persone. Questo mi preoccuperebbe se così fosse, mi auguro che non sia così. In 10 secondi, i poteri forti, perché spesso vengo da lei, che definizioni ne dà? I poteri forti? Beh, sono i poteri, uso il termine che usa Gustavo Zagrebelsky, i poteri che operano nel segreto e che si sottraggono al controllo dell'opinione pubblica, della democrazia e dei cittadini. E ci sono? Sono attivi in Italia? Molto, assolutamente. Assolutamente. Ce ne sono sia a livello economico, sia a livello anche proprio istituzionale. Lei, guardi, ha fatto un riferimento lei stesso a quello che è successo nelle indagini per le stragi. Sì. E vedrà chi ha indagato e chi ha nascosto. Va bene, io intanto la ringrazio e invito ovviamente alla lettura, esce in settimana. Grazie a Livio Pepino, lo ricordo, Forti con i deboli, per chi vuole leggere questo libro edito da Burr, un duro attacco appunto da un ex magistrato, 40 anni in magistratura, a un sistema che protegge appunto i forti. Ci fermiamo, grazie a tutti, ci ritroviamo domattina alle 6.30.